4. Tanti problemi. Il primo mese di scuola, Alexandra è molto triste. Ha tanti problemi. La leader della classe è Giovanna. È una bella ragazza, ha i capelli neri molto lunghi e il viso molto dolce. È la più bella della classe, dopo Alexandra. E forse Giovanna è un po' gelosa. Giovanna ha un carattere molto forte. Tutte le femmine e tutti i maschi sono suoi amici. Giovanna fa le battaglie con i professori, protesta per i troppi compiti, è molto coraggiosa. A Giovanna però Alexandra è molto antipatica. Così Alexandra è sola. Poi c'è la professoressa d'inglese. È molto cattiva e dà compiti molto difficili. Alexandra non sa l'inglese, non ha studiato inglese in Romania. Al compito in classe, la professoressa le mette 3 e dice: Alexandra, non hai studiato! Vuoi essere bocciata?